La città oscura si stendeva sotto di noi come un villaggio in miniatura per topi. Piccole finestre mostravano luci di candela, con pochi riquadri più intensi illuminati da lampade a batteria o a carburo. Immaginai i vecchi intenti a interminabili giochi di domino sotto le grosse gocce calde che cadevano dai bucati stesi ad asciugare sui pali fra le baracche di compensato. William Gibson, Johnny Mnemonic.